Allora, Invisibili in Movimento è una comunità politica nata l'anno scorso dopo la manifestazione indetta da Aboubakar Soumaoro, che è il nostro portavoce, gli Stati Popolari a Roma appunto a luglio dell'anno scorso. A partire da quell'occasione poi c'è stato appunto un percorso di costruzione di questa comunità politica che ha in sostanza l'obiettivo di creare una nuova anche visione, un nuovo modo di fare politica, quella con la P maiuscola, come spesso no, si sente dire in giro. Abbiamo l'obiettivo, meglio l'ambizione, di dare voce agli ultimi, agli emarginati, ai cosiddetti invisibili, dove per invisibili intendiamo non solo i riders, non solo i braccianti delle campagne foggiane, ma una veramente sempre crescente fetta di persone che sempre più sono escluse da questa società e da questo modello di sviluppo. Stiamo portando avanti questo cammino degli invisibili proprio per quindi pensare, immaginare un nuovo modo sia di fare politica e anche di immaginare appunto una nuova struttura, una nuova visione politica, coinvolgendo quanto più possibile anche le realtà presenti sul territorio. Ecco perché stiamo partendo in ogni città con le agorà popolari. Le agorà popolari sono per noi momenti di confronto, di dibattito con la cittadinanza, con tutte le associazioni presenti, ma sono principalmente un momento di ascolto, perché come comunità riteniamo sia fondamentale partire dall'ascolto, una cosa banale ma purtroppo quasi sempre dimenticata dalla politica in questi anni. Quindi vogliamo ascoltare la voce di queste realtà appunto invisibili e non vogliamo ascoltare anche le esperienze virtuose, perché bisogna anche partire da quelle, perché ci sono, e cercare quindi in futuro poi di creare una visione comune per, come ho detto prima, immaginare un futuro dove un futuro più giusto, dove veramente tutti possono avere il diritto, no, di essere felici. Quindi su ogni territorio cercate sostanzialmente anche degli alleati, delle alleanze per portare avanti questa battaglia. All'incontro al Costa Arena ci saranno diverse realtà bolognesi che si occupano degli emarginati, si occupano appunto di sociale. Puoi ricordarcene qualcuna? Sì, noi, come ben detto tu, abbiamo l'ambizione di federare, no, poi tutte queste realtà. Bologna, così come è stato anche in altre città d'Italia, ci saranno diverse realtà impegnate nel sociale, impegnate già con altre battaglie. Penso ad esempio al XR, Fridays for Future, penso anche al coordinamento migranti che abbiamo invitato, penso all'associazione ASAI e tante altre che, ripeto, spero possano davvero dire la propria e cercare di aiutarci, no, nell'elaborazione anche di questo progetto, sia per il paese che per la città, perché, ripeto, credo sia fondamentale partire dall'ascoltare. Infatti queste agorà per noi sono anche un modo per essere il megafono di queste realtà che, ripeto, in molti casi sono anche realtà virtuose, ma molto spesso si trovano magari a combattere da sole una battaglia molto più grande di loro. Per questo appunto l'idea è quella di federare, di mettere tutte insieme queste realtà per poter sempre essere più incisivi e forti nelle battaglie politiche appunto del futuro. Io ti chiedo di ricordare l'appuntamento. Sabato appunto 13 novembre alle 18 presso il Costa Arena. Saremo lì sicuramente anche dopo, ci fermeremo per un'oretta anche per parlare con tutti gli ospiti e con chi vorrà poi farci qualche domanda, quindi vi aspettiamo numerosi, diciamo così.